pensi, Rossi, che questa cosa possa far perdere voti al partito, al movimento di Futuro e Libertà, o no? Ad oggi assolutamente sì. Questa è una notizia. Cioè oggi sì, cioè, pensi che questa cosa, lei pensa che voti. Lei pensa che questa scelta che è stata fatta anche con pochi distinguo, devo dire, ma a parte un caso, credo quello di Granata a livello parlamentare, esplicito, cioè non avrebbe votato il lodo Alfano retroattivo, che poi è un po' assurdo, perché o è retroattivo oppure non è, insomma, il lodo Alfano, insomma. Infatti io credo che la discussione non sia su quell'emendamento di ieri, perché appunto il lodo Alfano o è retroattivo oppure non esiste, quindi non c'è, ieri non c'è la novità sulla tecnicità della giornata di ieri, certo. Politica, non ci sono discussioni, ecco, ma